Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, buonasera e un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, siamo qui anche stasera. Parleremo di un argomento, parleremo, il nostro ospite parlerà di un argomento. Vabbè, dai, lasciamo la sorpresa. Sì. E intanto diamo un cordiale saluto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Con un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Naturalmente. Sempre. Allora, Antonio, stasera abbiamo un ospite virtuale. Per telefono avremo il professor Antonio Soligon, esatto, che ci parlerà della peste a Venezia e nei dintorni. Insomma, tu vuoi intanto cominciare a leggere il curriculum? Un curriculum. Il professor Soligon vive e lavora a Conegliano, laureato in lettere e ha insegnato sino a settembre 2012 in istituti superiori. Tiene conferenze e dibattiti di storia ed arte locali per istituzioni sia pubbliche che private e collabora a giornali e riviste. È socio onorario dell'Associazione Amici di Giambattista Cima e dell'International Inner Wheel. Il Lions Club Conegliano gli ha conferito il Premio Cultura 2006. Una sua intervista è stata pubblicata da Il Quindicinale, edizione 32, 16-29-08, 2013. Benissimo. Tra le sue pubblicazioni, in collaborazione con M. Baldissin, chiese a San Fior alla scoperta del patrimonio artistico, Comune di San Fior 2002, sempre in collaborazione con lo stesso autore, oratori, capitelli ed altri segni del sacro, Comune di San Fior 2004. Poi alcune considerazioni sulla pala di Beccaruzzi per l'altar maggiore di San Francesco di Conegliano, Storia dentro, 2004. Una guerra tra santi, problemi di presenze e identità nel politico di San Fior di Giambattista Cima da Conegliano, Storia dentro, 2006. Palazzo Tiepolo in Vazzola, Comune di Vazzola, 2007. Conegliano e la peste del 1630, l'azione, 11-11-2007. Stucchi e miti di Palazzo Sarcinelli, Storia dentro, 2008. Ultima cena, chiesa di San Giovanni Battista a San Fior di Sopra, Inner Wheel, 2008, in collaborazione con Bardini. Parrocchia di San Martino Vescovo di Visnà, Parrocchia di Visnà, 2009, in collaborazione con Meneghin. Ad usum parrocchie Santa Maria ac Sant Michaelis de Feleto, Storia della parrocchia e guida ai suoi edifici sacri, De Bastiani Editore, 2011. La pala e il misterioso delitto, l'azione, 02-10-2011. San Sebastiano nella pieve di San Pietro di Feletto, De Bastiani Editore, 2013. Il battesimo di Cristo di Francesco Frigimelica il Vecchio, Inner Wheel, 2013. Una sorpresa di San Valentino, l'azione, 9-2-2014. Bene, questo e qui, un po' concitatamente, ma l'abbiamo letta. Abbiamo... questo è il curriculum del nostro professor Antonio Soligon, che fra poco, dopo la prima canzone, ci parlerà della la peste, storia, arte e devozione nei secoli della morte nera. Allora, intanto ci ascoltiamo il primo programma, che è cantato da Beniamino Gigli ed è intitolato Notte a Venezia. Thank you. si fa più nascosta, svanisce la fama. Anello perice che a tutti gli astonde, e i dono le dice, colui d'uomo risponde. Ed eccoci in studio con il nostro ospite, il professor Antonio Soligon. Buonasera professore, bentornato. Buonasera professore. Buonasera. Bentrovato. Buonasera, bentrovato. Grazie, ecco. A voi, ben ritrovati. Grazie. Allora, io ho già annunciato che parlerà della peste nera, storia, arte e devozione nei secoli della morte nera, sì appunto. Ecco. Allora iniziamo con una domanda così, subito entriamo in argomento. Lei si è più volte occupato della peste a Venezia e nei nostri paesi che spesso sono stati sconvolti da questa terribile malattia. La peste era la morte nera. Peste è rimasta una parola che ancora oggi spaventa, per cui ogni nuova malattia epidemica, per esempio l'AIDS, diventa subito la nuova peste. Ma in realtà che significa la parola peste? La parola peste ha lasciato tracce spaventose anche nella nostra memoria. È una parola latina, pestis, e in latino era una parola che aveva più significati. Significava distruzione, significava rovina e significava anche epidemia. Quindi abbracciava un arco di significati che comportavano sempre con sé il terrore e la paura. Quante sono state le epidemie del passato? Le nozioni chiaramente non sono chiare perché mancano i documenti diretti. Distinguiamo prima di Cristo, prima dell'era cristiana, alcuni studiosi parlano addirittura di 600 epidemie, altri, e credo sia più verosimile, di una quarantina di epidemie. Le cose si fanno più precise se andiamo dopo Cristo. Dopo Cristo abbiamo avuto tre pandemie. La prima ai tempi dell'imperatore Giustiniano, quindi siamo tra il 541 e l'VIII secolo d.C. E pensate che si è lasciata dietro 100 milioni di morti, si calcola, in un'Europa straordinaria, pochi abitanti. Poi c'è stata la peste del basso Medioevo, che è quella che comincia nel 1348 e finisce nel 1844. Pensate che era ancora questa peste del basso Medioevo che faceva strage dei soldati di Napoleone nella campagna d'Egitto. E infine la peste ultima, quella tra il 1800 e il 1900, che è stata a volte confusa anche con la famosa spagnola. Pensate che appunto alcuni morti che si pensavano di spagnola, ma non in paesi distanti, parlo di Parigi, parlo di Lisbona, in realtà erano morti di peste, che è la peste appunto dei secoli XIX e XX. La peste esiste ancora oggi, esiste in Africa, esiste in Asia, esiste in America Latina. Non meravigliatevi, ci sono addirittura zone particolarmente povere degli USA, degli Stati Uniti, in cui ancora oggi la peste è presente. Certo, gli antibiotici l'hanno fatta diventare, quando ti si può permettere l'antibiotico, certo, una malattia debellabile, ma è ancora oggi presente. È veramente sintomatica una cosa di questo tipo, una nozione che non credo sia di comune, diciamo, conoscenza. Infatti, quando dico nelle mie lezioni che la peste è presente ancora persino negli Stati Uniti, non ci vedo, credo. Sguardi immagino. E quali erano le conseguenze sociali della peste? La peste aveva conseguenze sociali gravissime, nell'introduzione si è detto che era veramente la morte nera. I nostri antenati, che non avevano nozioni mediche tali da poter consentire una difesa, al passaggio della peste pensavano che veramente fosse arrivata la fine del mondo. La società veniva completamente sconvolta. Pensate che nella prima ondata, noi oggi parleremo soprattutto della peste del basso medioevo, cioè quella di cui parla anche il Boccaccio nel suo Decamerone. Pensate che nei primi 2 anni dall'arrivo della peste, quindi vi dico, parliamo 1347-49, in un'Europa che contava pochi abitanti, i morti sono stati 25 milioni. Quindi la prima conseguenza sociale era il panico e lo sconvolgimento sociale e morale. Per cui per la paura del contagio i figli abbandonavano i padri, le madri abbandonavano i figli. Dalla paura, c'era lo spopolamento di città e campagne. Venivano abbandonate le terre coltivate. Coltivare per chi? Non c'erano più bocche. Non c'era prospettiva, non c'era niente. Sì. Esatto, ma non, era proprio il mercato che portava ad abbandonare le terre e quindi c'era il crollo dei prezzi delle granaglie. Se nessuno più domanda un bene, il valore di quel bene del mercato crolla. Esatto. E di conseguenza si abbandonavano le terre, non valeva più la pena di coltivarle. Esatto. E poi, altra conseguenza, però questa volta, se volete, positiva, aumentava il costo della manodopera. Moltissimi operai erano morti a causa della peste e quindi il valore delle ore di lavoro di pochi operai sopravvissuti valeva qualcosa di più. Erano comunque gente molto, molto povera. Immagino. Beh, certo che sono, come dire, la storia vista attraverso il filtro di queste epidemie, eccetera, è un qualcosa che assume un aspetto molto diverso da quella che siamo abituati a conoscere, mi pare. Sicuramente. E la medicina? Che ne pensavano i medici? La medicina fa un po' ridere. Nella dramma della peste i medici non capivano un bel niente. Io a volte scherzando dico che è un po' come al giorno d'oggi, capiscono poco. È una battuta di spirito. Simpatica. Allora, all'apparire della peste del basso medioevo del 1347-48, due erano le teorie che qui da noi, ma ovunque, avevano la meglio. E erano anche nella famosa Università di Padova, erano sostenute con forza. La prima era la teoria miasmatica, che derivava dagli antichi medici greci, Ippocrate e Galeno, per cui la peste nasceva dalla corruzione dell'aria, l'aria cattiva faceva nascere la peste. L'altra teoria, che andava per la maggiore, era invece dell'arabo Avicenna, ed era la teoria astrologica, secondo la quale erano gli astri, le congiunzioni nefaste delle stelle e dei pianeti, che provocavano la peste. Vi ricorderete che nei Promessi Sposi il famoso Don Ferrante, che è legato alla cultura tradizionale, se ne va a letto e muore di peste prendendosela, dice il nostro grande Alessandro Manzoni, prendendosela con le stelle. Questi medici. In realtà la gente, con il buon senso, si era accorta che la malattia passava di persona in persona con il contagio, con il contatto. E però i medici sostenevano invece teorie che erano addirittura contro il buon senso di ciò che l'esperienza insegnava. I medici. Allora cosa si faceva per contrastare secondo queste convinzioni? Beh, si facevano, per rendere più forte il corpo contro l'aria cattiva, l'influsso delle stelle, si facevano, non meravigliatevi, purghe, diete, salassi a non finire. Naturalmente la diagnosi era fatta dai medici fisici. Scusi professore, ci fermiamo un momento per un altro brano, poi ci risentiamo. Prego. Grazie. Sì. Allora, Adriano Celentano ci canterà Ancora Vivo. Non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai, ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai, chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Ciò che è rimasto, quel che c'è, io l'ho già dato a te, e ho ricevuto, lo sai anche tu, molto di più. Tu sei arrivata quando io non ti aspettavo ormai, sei la mia vita tu, tutte le donne tu. Ancora vivo, sei ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo opaco, un poco addolorato. Ma io ti amo, tu non sei sola, la tua presenza adesso quanto mi consola. L'entusiasmo che avevo quando ero bambino ogni tanto ritorna e mi esplode nel cuore, specialmente se a volte mi vieni vicino. Sento arrivare ondate d'amore. Ancora vivo, sei ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo opaco, un poco addolorato. Si gioca coi sentimenti, ancora non ho giocato vivo, mai, si ancora, ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai, chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Eccoci di nuovo in studio con il nostro professor Antonio Soligon. Eccoci qua, professore. Ben ritrovati. Bene. Allora, stava parlando dei medici, cosa ne pensavano? Pare, sì, no? Infatti dicevamo che ci si difendeva in modo strano, no? Con salassi, con purghe, per rendersi più forti contro l'aria cattiva e contro gli influssi nefasti delle stelle. I medici indossavano la famosa maschera che sembra quella di un corvo, la si vede nei carnevali di Venezia. In realtà la maschera all'interno aveva questo lungo becco perché all'interno nascondeva una spugna con profumi. Con questa spugna, che serviva come da maschera antigas, i medici si illudevano di difendersi, filtravano l'aria cattiva e si illudevano di difendersi dalla peste. Io dico in dialetto, no? Che ste robe alla peste non le fai neanche ai gattarigoli, naturalmente. Esatto, però c'è però un... sì, prego, era la loro convinzione. Esatto. Poi, quando si pensava invece che la peste fosse dovuta agli influssi stellari, si usavano contro la virtù negativa della stella le virtù delle pietre, per cui si portavano addosso chi poteva, i ricchi, i pochissimi ricchi, portavano pietre preziose addosso per difendersi contro le stelle, i poreti, portava il cornetto, i cestacci, questi segni contro le stelle che inviavano i loro influssi negativi. Povere stelle. Poi c'è una famosa medicina poi che si chiama triaca, serviva a qualcosa, e poi mi ricorda, non so se mi sbaglio, un famoso racconto est-est-est dove si parlava, mi pare, di teriaca. No, ricordo benissimo, allora la teriaca o triaca era una medicina antichissima, perfezionata dai veneziani, dai farmacisti veneziani, i famosi spezieri veneziani. Esatto. Venezia era il più grande porto, quindi aveva grande disponibilità delle materie prime come le spezie con le quali si fabbricavano le medicine. ma la teriaca o triaca era una medicina del tutto particolare, era considerata una panacea, cioè una medicina capace di guarire qualsiasi male, in particolare capace di guarire la terribile morte nera, la terribile peste. Era fatta di 50 ingredienti mischiati insieme, ma non stupitevi, l'ingrediente fondamentale era la carne di vipera, perché si pensava che la vipera con il suo veleno potesse scacciare il veleno della malattia, un antidoto, il veleno della peste. Sì. Vi dico di più, per avere una triaca veramente di OCG, dico io, bisognava non utilizzare le vipere qualsiasi, ma solo le vipere maschio. Io dico scherzando che per forza, perché le vipere femmine sono troppe, sono inflazionate, quindi, e quindi i viperi si usavano. Non di ogni provenienza, in particolare erano pregiati i viperi dei colli ugani, quindi la teriaca più costosa a Venezia era proprio fatta con la carne dei viperi dei colli ugani. Se ne vedono ancora delle insegne ai piedi del ponte di Rialto, si vede una testa d'oro appesa, lì c'era un'antica farmacia e si vendeva la triaca. In Campo Santo Stefano, quella ai piedi del ponte di legno sul Canal Grande, si vedono ancora nei durissimi masegni di Venezia. Venezia è tutta tappezzata di masegni, cioè di trachite dei colli ugani, per quello che noi campagnoli quando torniamo da Venezia abbiamo i piedi stanchi, perché la pietra di Venezia è molto dura, trachis vuol dire proprio dura. Ecco la spiegazione. Sulla dura trachite di Venezia, pensate che i garzoni dell'ospiziere, a forza di battere nei mortai 50 ingredienti, perché la triaca veniva prodotta coram populo fuori davanti alla farmacia, davanti a quella che era una farmacia fino a pochi anni fa e adesso è un negozio di oro, si vedono ancora i segni, le impronte circolari dei mortai, pensate, sopra i duri masegni. Quindi hanno battuto talmente forte per secoli. Ma cosa serviva la triaca? A niente. Però pensate che per scoprire che era del tutto inutile è stato necessario aspettare a metà Settecento un medico inglese che ha dimostrato l'inutilità della medicina. Però in realtà non era inutile, a qualcosa serviva. Mm-hmm. Serviva a far schei ai spezieri veneziani, che erano i più ricchi d'Europa. Allora i schei. Gli spezieri veneziani erano veramente i più ricchi. Vi racconto questo aneddoto. Sì. Tra i miei gruppi di studio ci sono anche dei gruppi di farmacisti. Allora un giorno spiegavo che i farmacisti hanno sempre fatto tanti soldi e uno molto simpatico si alza e dice: beh professore, io forse sono l'unico tra i farmacisti che non ha fatto soldi. La sera si parte da Venezia, si torna in stazione e ci si saluta e io salgo sulla mia vecchia brava e lui sale a bordo della sua Porsche. È tutto relativo, la pubblicità non ha fatto soldi. Torniamo alla peste, sì, perché sto divagando. Quando si è scoperta la verità sulla malattia? Allora pensate che la si è scoperta un centinaio di anni fa, per cui per secoli si è veramente vagolato nel buio. Allora a scoprirla è stato il medico Alessandro Yersin nel 1894, che ha scoperto finalmente il batterio che provoca la peste e l'ha battezzato con il suo nome Yersinia pestis, quindi 1894. Alle soglie proprio della modernità. Un centinaio di anni fa, però non si capiva da dove veniva questo batterio, era un grande mistero. Bisogna aspettare altri due anni, cioè il 1898, il medico Paul-Louis Simon, per scoprire che questi erano batteri che vivevano nelle pulci parassite dei topi. E quindi era il topo che portava in giro la peste, la pulce malata del topo. La peste è una malattia dei roditori, solo eccezionalmente passa all'uomo. Le pulci erano secoli di grande sporcizia, nessuno si lavava, si viveva in grande promiscuità con gli animali, pensate, quelli che erano tuguri, che allora chiamavano case. Per cui le pulci in certe circostanze avevano gioco facile di saltare sull'uomo, erano sporchissimi, non si cambiavano mai di vestito perché erano erano società poverissime, un uomo aveva un unico vestito e serviva dalla nascita alla morte, possiamo dire, di giorno, quindi immaginate la sporcizia. E le pulci avevano terreno facile e trasportavano questi batteri dai topi all'uomo, ed era la strage. E quando arriva a Venezia e da noi questa epidemia di peste? Sì, allora la peste del basso medioevo, lo ricordavamo prima, arriva nel 1348 e arriva dalla lontana Cina. La Cina ancora oggi a volte è l'incubatrice di certe malattie, anche di certe influenze. Il focolaio in Cina era divampato nel 1333. E poi, adesso le malattie viaggiano con gli aerei, sono molto più veloci. Allora viaggiavano con i cammelli, e quindi dalla Cina, lungo con le carovane della Via della Seta e con i pellegrini che via mare, con le feluche, i pellegrini musulmani, raggiungevano la Mecca, perché sapete che i musulmani almeno una volta nella vita. La malattia lentamente, nel giro di 4 anni, riesce a percorrere tutta l'Asia e arrivare sul Mar Nero. Qui sul Mar Nero una nave di genovesi, devo spiegare che il califfo locale, Caffa, era in guerra contro i genovesi, questo califfo prende dei cadaveri di morte e di peste, li scaglia all'interno del quartiere dei genovesi, i genovesi si danno alla fuga, ma ormai purtroppo hanno su di sé la malattia. Arrivano in Sicilia con la loro nave, queste galere a Messina, e da lì la peste parte. In pochissimi mesi divampa in tutta Italia e poi percorrerà l'Europa facendo una strage gigantesca. Ecco, professore, ci fermiamo ancora un momento per un'altra canzone. Molto volentieri. Grazie. Allora, cantata da Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo, sogna. Sangue, nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza sogna. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. E Venezia è sempre stata grande sorgente di iniziative straordinarie, per esempio ha inventato la finanza e ha inventato i libri e non solo, ma ha inventato anche la prevenzione sanitaria. Che significa? E questo argomento è concatenato con un altro. Cosa sono i famosi lazzaretti? Allora, Venezia ha inventato, ragione lei, tante cose. La peste aveva varie ondate e fino al 1486 ogni 4-5 anni era una terribile scopa che percorreva l'Europa e ogni 4-5 anni ricompariva a fare strage nello stesso luogo. Venezia, che era un grande porto, era esposta più di ogni altra città al contagio e quindi ha dovuto per forza, era l'unica difesa, visto che la medicina in realtà era impotente contro la peste, ha dovuto per forza inventare la prevenzione. Non ci si poteva curare e allora bisognava prevenire, senza nozioni scientifiche, ma semplicemente osservando in modo empirico, quindi osservando ciò che succedeva nella realtà della malattia, il governo veneziano ha elaborato la prevenzione sanitaria, che comportava anche scelte molto difficili sul piano economico. Il primo atto è stato l'11 maggio del 1400, la città di Ragusa era infetta e il governo veneziano fa l'atto di grandissimo coraggio di respingere le navi provenienti da Ragusa. Ecco, allora la prevenzione comportava anche grandi sacrifici economici, il tagliare i rapporti commerciali con le zone infette, per questo che anche nei secoli successivi si faceva molta resistenza prima di riconoscere che una zona era infetta, perché significava tagliare ogni scambio commerciale, ma il coraggio era necessario e Venezia è la prima. Dal 1423 diventa stabile di norma, di regola, il bando delle zone infette e nello stesso anno 1423, come diceva lei, fondano il Lazzaretto Vecchio per ricoverare i malati lontano dalla città, perché si erano resi conto che se il malato restava a contatto con i sani contraevano la malattia. Anche la parola Lazzaretto è una parola veneziana. Deriva da Santa Maria di Nazareth, da cui poi Lazzaretto. Ecco. E questo è il Lazzaretto Vecchio. Aveva un priore che guadagnava 100 ducati annui e una priora 40 ducati annui, femministe, ciò che insorgono. C'è, come la priora 40. Anche la priora. Non è cambiato molto da allora. No, insomma. Non è cambiato molto. C'erano naturalmente, c'erano anche degli imbrogli, non tutti i priori furono degli onesti, qualcuno giunse a far morire di fame i bambini ricoverati per intascare la diaria e non dava in realtà da mangiare. Ma a Venezia potevi commettere anche il reato, però se ti pescavano, erano guai seri, c'era la corte dell'Aia, erano guai seri. Per esempio l'abuso che poteva fare un priore o una priora veniva punito con 3 anni, dico con una N soltanto alla Veneta, perché sapete che in Veneto le doppie vanno e vengono, esatto. Seconda delle ombre, poi io no. E quindi 3 anni de preson forte a pan e acqua e bando perpetuo. Poi una cosa che non si sa sul funzionamento dei lazzaretti, che durante le grandi epidemie erano veramente dei luoghi da incubo, con 8 ammalati sullo stesso giaciglio, non si sa che a lavorare, lavoro coatto, erano le prostitute. Le prostitute, Venezia era piena di prostitute famose, c'erano le cortigiane, ma poi c'erano la carne da macello, la carne da cannone, le prostitute di infima categoria. Queste obbligatoriamente venivano trasferite nel lazzaretto ed erano obbligate a lavare, a far da mangiare, a lavorare. Vi lascio immaginare che quasi tutte morivano, ma erano carne da macello e quindi la maggior parte moriva. Poi c'era il lazzaretto nuovo, chiaramente, che invece serviva alla Vigna Murada. Nasce nel 1468, in cui invece si ricoveravano le merci e i malati sospettati di avere la malattia, oppure che erano stati in contatto con ammalati. e del resto non ancora, sono isole bellissime da visitare, interessantissime, ci sono delle visite guidate, è un giro veneziano particolare, quello dei lazzaretti, ma vale veramente la pena di vedere per capire cos'era la prevenzione sanitaria a Venezia. E che succedeva quando uno si ammalava di peste? Allora, lo sforzo dello Stato era grandissimo, perché l'ammalato costava molto. Allora l'ammalato veniva, bisognava, il prete, il medico avevano l'obbligo di denunciare la presenza dell'ammalato, perché doveva essere isolato immediatamente dalla comunità. Era per questo che nei Promessi Sposi, per esempio, ma siamo a Milano, quando il terribile Don Rodrigo scopre di avere la peste, il famoso incubo, scopre di avere il bubbone, manda il suo griso, un altro bel delinquente come lui, non dal medico ufficiale, ma dal chiodo chirurgo, che lo curi segretamente in casa. Invece il griso chiamerà i monatti che porteranno il padrone al lazzaretto. Lo scopo era derubarlo, naturalmente. Allora, il prete doveva obbligatoriamente denunciare l'ammalato, e anche il medico veniva portato al lazzaretto vecchio, dove venivano gli altri, tutti quelli che erano stati in contatto con lui, venivano portati al lazzaretto nuovo, ma non nell'isola, ma tutto intorno. Era impressionante, durante le peste, vedere le migliaia di barche ancorate intorno al lazzaretto nuovo, quello riservato ai sospettati. In queste barche vivevano il popolo dei sospettati, c'era anche la barca della messa che girava con il prete a recitare la messa, a distribuire le comunioni. Se uno degli imbarcati manifestava la malattia, veniva preso, separato immediatamente dal resto dell'equipaggio, portato nel lazzaretto vecchio, e gli altri venivano lavati, cambiati di vestiti, perché avevano capito che erano i vestiti anche che passavano la malattia, e rimessi in un'altra barca. In questo modo, su 8-10.000 persone che erano intorno al lazzaretto nuovo, il 99% nel 1631, l'ultima grande peste, pensate, si è salvato. Straordinario. Pensate quanto costava questo popolo, per cui durante le epidemie le tasse aumentavano vertiginosamente. Però poi non restava, non è come per noi che parliamo ancora per gli orfani garibaldini. È vero, è vero. Appena finita l'epidemia c'era un comitato apposta che eliminava tutte le tasse che erano nate durante la peste, ma che a peste finita erano diventate inutili. Mentre noi, ripeto, continuiamo a pagare le tasse. Possiamo fare un sospiro, professore? Gli autorizzo. La superstizione diceva che la peste era un castigo di Dio o opera del demonio e degli untori. Esatto, questa era la convinzione diffusa per l'Europa, attraverso tutta l'Europa, ma noi dovremmo essere orgogliosi di Venezia, perché pensate che Venezia fu sempre tollerante, quasi sempre. Non troverete mai a Venezia un processo contro falsi capi espiatori come gli ebrei, contro i diversi, mentre a Milano, per esempio, si trovano, il Manzoni ne parlava, processi, la storia della colonna infame, processi terribili contro i cosiddetti untori sospettati di ungere le porte delle case per trasmettere la peste, che poi venivano fatti a pezzi, uccisi in modo linciati proprio per punirli. A Venezia non c'è un processo contro gli untori. Veramente noi dovremmo essere orgogliosi della nostra Venezia, patria del libero pensiero, anche da questo punto di vista. Certo, c'era la devozione, si pregava a Dio che aiutasse gli ammalati, che aiutasse la città, e questo lo faceva anche Venezia. Esatto. Tantissime chiese di Venezia nascono come invocazione o ringraziamento a Dio per la peste. E in effetti, esatto, la paura della peste, dicevamo, ha fatto nascere tanta arte, chiese, statue, dipinti che ancora oggi incantano. Certo. Quali erano i santi della peste? Cristoforo, per esempio, proteggeva contro la peste, c'era il gigante buono, quello che aveva portato Gesù sulle sue spalle. Pensate che c'era la convinzione che bastasse dare un'occhiata a San Cristoforo per avere per quella giornata la garanzia che la vita non ci sarebbe stata tolta. È per questo che, per esempio, nelle chiese di montagna San Cristoforo è rappresentato affrescato sui muri esterni, perché tutti, anche pur passando da lontano potessero rivolgere almeno per un attimo lo sguardo a San Cristoforo e mettersi in tasca per quel giorno la garanzia della sopravvivenza. C'è un bellissimo San Cristoforo di Tiziano in Palazzo Ducale e penso che anche il Doge lo avesse fatto per lo stesso scopo. Per lo stesso motivo, certo, certo. E andava nella sua cappella privata a dare un'occhiata a Cristoforo e mettersi in tasca la sopravvivenza per quelle 24 ore. Poi c'erano i Santi Cosma e Damiano, i protettori dei medici. Tra l'altro i Santi Cosma e Damiano curavano tutti gratis, dice la leggenda aurea. E quindi nei gruppi di medici, quando dico che Cosma e Damiano curavano e guarivano gratis, mi danno certe occhiatate che non vi dico. Diciamo che non... qualche frecciatina. Ma io amo scherzare. Questa è una cosa molto importante. Molto importante. Sì. Adesso ci fermiamo un momento, professore, per un'altra canzone. Antonio, noi adesso abbiamo Frank Sinatra con... Andiamo fora sciapo, come dicono dalle mie parti, Frank Sinatra con Strangers in the Night, Stranieri nella notte. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night. Eccoci di nuovo in studio. Professor Sorigon, lei ha pubblicato un libro su San Sebastiano e una famosa chiesa. Sì, nel 2013, quindi l'anno scorso, l'ho presentato il giorno 19 gennaio, vigilia di San Sebastiano, che ho pubblicato un libro, San Sebastiano nella pieve di San Pietro di Feletto. Sì. San Pietro di Feletto ha una pieve tra le più antiche della diocesi di Vittorio Veneto ed è bellissima per il sito, le colline del Feletto e anche per i valori architettonici e artistici di questa chiesa. In origine lì sorgeva addirittura un tempietto romano, San Sebastiano, perché dentro nella chiesa c'è una cappella famosissima dipinta tra il 1471 e 74, i documenti non ci sono, per cui così ci sono date approssimative, non si sa neanche bene il nome del pittore, dedicata a San Sebastiano. Parlavamo dei santi della peste, San Sebastiano era il santo che godeva della maggior devozione, perché si considerava che le frecce fossero il simbolo della peste, che venivano scagliate dal cielo sulla terra, appunto gli influssi stellari. San Sebastiano, questo giovane bello, biondo, che era stato colpito dalle frecce nel suo martirio, ma che era sopravvissuto alle frecce, rappresentava la speranza per i fedeli di sopravvivere a loro volta contro la peste che scendeva dalle stelle. Per cui era il più invocato e a San Pietro di Feletto hanno tanti secoli fa ormai, hanno affrescato quella cappella che ancora oggi è visitata da migliaia di persone ogni anno. E quindi è un libro che è stato accolto con una grande popolarità, con una grande simpatia. Pensate che la sera, ripeto, 19 gennaio dell'anno scorso, quando l'ho presentato, era una nottata bruttissima, con neve, freddo. Ho pensato tra me, andando alla presentazione, non ci sarà nessuno, poca gente. C'era talmente tanta folla che hanno dovuto chiudere il paese perché non c'erano più parcheggi praticabili. È stata una grandissima soddisfazione. Ma dimostra che San Sebastiano comunque ancora agisse sulla nostra memoria collettiva, e agisce perché rappresentava la speranza dei fedeli contro la morte nera, contro la fine del mondo, contro la peste. E San Rocco però finì con superare? Sì, perché, è certo, perché San Sebastiano, c'è una chiesa famosissima anche a Venezia, no? Quella fresca, quella con i dipinti del Veronese, San Sebastiano si è trovato a un certo momento un concorrente molto agguerrito, agguerrito. Perché i veneziani nel 1485 si sono procurati a Voghera, perché bisogna riscrivere la vita di San Rocco, era morto a Voghera, questo santo che aveva avuto, un santo storico realmente esistito, che aveva avuto la peste durante i suoi pellegrinaggi e l'aveva superata, ed era morto a Voghera. I veneziani si erano procurati a Voghera il corpo di San Rocco, ripeto la data 1485, si erano procurati, trattandosi di veneziani, tutti dicono l'avevano rubato, perché i veneziani, i venetici erano famosi, no? Ecco, però è sbagliato, perché questa volta si è ritrovato veramente il contratto della compravendita delle reliquie. In quella cultura il culto delle reliquie era importantissimo, molto importante. Si è ritrovato questo contratto, per cui per una volta tanto i veneziani non l'avevano rubato e possono smentire, regolarmente comprato. Però io, conoscendo gli antichi veneziani dai miei studi, dico avranno tirato sul prezzo sicuramente. Veneziani erano. Allora mercanti. San Rocco viene, lo sapete, e viene rappresentato con il bastone del pellegrino, la capa santa, sul mantello la famosa conchiglia di San Giacomo, la capa santa, che era il simbolo dei pellegrini di Compostela, la calza abbassata, la calza braga abbassata, e io dico sempre ai miei allievi di arte, non per fare autostop, attenzione, la calza abbassata per mostrarci il bubbone della peste. Pensate, la raffigurazione di questi bubboni di San Rocco è la raffigurazione scientificamente più attendibile, che ci arriva dal passato, di com'erano i bubboni della peste. E lo vediamo poi accompagnato sempre dal cagnolino che gli portava il pane da mangiare quando lui, appestato, si era ritirato lontano da tutti, e l'angelo che gli medicava la ferita. Quindi San Rocco è un santo facilissimo da riconoscere, vestito da pellegrino, con il bastone del pellegrino, la capa santa sul mantello, l'angelo, il cane, la calza abbassata. Attenzione, non per fare autostop. E quindi riconosciamo Rocco, insomma. I veneziani l'hanno portato a Venezia, hanno costruito la famosa chiesa di San Rocco, la scuola grande di San Rocco, il corpo è ancora a Venezia in un altare che è meraviglioso, uno dei più belli. Sono gelosissimi delle reliquie di San Rocco, gelosissimi, e il 16 di agosto sì, il sindaco va ancora oggi in visita, perché una volta ci andava il doge, adesso dobbiamo accontentarci del sindaco. E si fa grande festa, ed è una data importante anche per le nostre campagne, no? Perché a San Rocco il signor dà le chiavi a ogni pitocco, nel senso che è il momento in cui la campagna è piena di frutti, e quindi il paron de casa, il signor, può dare la chiave a qualsiasi mendicante perché ce n'ha da mangiare per tutti. E quindi è collegato anche alla vita delle campagne. Rocco diventa, dopo il 1485, il santo più invocato, e sorpassa addirittura Sebastiano. Noi abbiamo la chiesa di San Rocco. C'era anche una chiesetta di San Sebastiano, che però è stata abbattuta e non esiste più. Avvicinandosi a Conegliano si trovava prima l'arco di San Sebastiano, poi l'arco di San Rocco, che dovevano difendere la città, dovevano impedire la peste di entrare in città. Pensate che sia l'arco di San Sebastiano sia l'arco di San Rocco sono stati abbattuti dagli austro-ungarici nel 1918, perché non ci passavano sotto con i camion, fiume, quindi hanno distrutto questi archi. Questo patrimonio straordinario. Eh sì, che dovevano difendere Conegliano dall'invasione della peste. Io, più in là poi c'era anche a Conegliano il lazzaretto, che era dove adesso c'è l'ex sinfono, la caserma dei vigili urbani. Per cui io dico, no, vedete, a baluardo della città c'era l'arco di San Sebastiano. Se non funzionava si incontrava poi l'arco di San Rocco, se non funzionava neanche quello, più in là c'era il lazzaretto, ti ricoveravano e amano. C'è una filiera completa, diciamo. Eh sì, ma non solo a Conegliano, naturalmente, vale per Treviso, vale per tutti, sì. E vale naturalmente per Venezia, che era una delle città più popolose d'Europa e quindi doveva difendersi, come dicevamo prima, come più di tutte le altre città. Esatto, e ancora oggi si fa grande festa a Venezia per il Redentore e per la salute, giusto? Esatto, il ricordo della peste è vivissimo. Il Redentore è stato costruito dal grande Andrea Palladio alla Giudecca, è il suo capolavoro di architettura religiosa per la grande peste del 1475-76, che è la stessa peste nella quale è morto Tiziano con suo figlio. Sapete che sono morti nello stesso giorno nella loro casa Ibiria, le Fondamenta 9, e la folla ha dato l'attacco alla casa, perché succedeva anche questo, no? Che c'erano gli sciacalli, per cui in una casa, quando tutti erano morti e morivano nel giro di poche ore tutti insieme, gli approfittatori davano l'assalto per saccheggiare. E così anche la casa di Tiziano è stata saccheggiata, e il suo ultimo quadro, la famosa Pietà, che lui voleva per la sua tomba ai Frari, ancora incompiuto, è rimasto là e adesso è alle gallerie dell'Accademia. Il Redentore è stato costruito per ringraziare il Redentore, a cui Venezia si era votata, della fine della peste ed è il capolavoro del Palladio. Ancora oggi, terza domenica di luglio, i veneziani vanno a fare la grandissima festa e salgono i 15 scalini della chiesa del Redentore. Non è un caso, sono 15, perché 15 erano i gradini del Tempio di Salomone. E poi, se passate dalle parti della Giudecca, guardate i campanili del Redentore, che sono in realtà due minareti, perché vuole ricordare l'Oriente e Gerusalemme. Quindi si va a far grande festa con le barche a mezzanotte, i fuochi d'artificio, il ponte votivo, perché il doge doveva recarsi a ringraziare il Redentore di aver liberato Venezia dalla peste, e si mangia in barca. Il cibo tipico dei veneziani, quelli doc, le non sono il pesce, ma la pasta e fasioi. Pasta e fasioi. Eh sì, vedete, mangiare pasta e fasioi, lì ci sono veri veneziani. E le castraure, professore? Le castraure, no, sono una primizia. Altre cose. Primaverile sono i carciofi. I carciofi, sì. Ma non compaiono più, perché siamo già in luglio. Esatto. No, è già finita la stagione. Pasta e fasioli. Poi invece c'è la festa della salute, quella sì, è il 21 di novembre. Si fa il ponte votivo per attraversare il Canal Grande, 21 novembre. Sì. La salute ricorda l'ultima grande peste di cui fu vittima Venezia, quella del 1630-31, che fu portata purtroppo in Italia, ne parla Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, è la peste dei Promessi Sposi, insomma, da un collalto. Da Rambaldo di Collalto. Mamma mia, da uno dei Collalti, ma guarda. Sì, che comandava le truppe imperiali che scendevano in Italia per mettere l'assedio, per cingere d'assedio Mantova. E questi lanticanechi, queste soldataglie germaniche, portavano con sé endemica la peste, anche perché gli eserciti erano poi seguiti dal codazzo delle prostitute che seguivano gli eserciti e avevano, era endemica, insomma, la peste. E quindi la porta. E a Venezia poi fu portata dall'ambasciatore del duca di Mantova, il marchese d'Estrigis. A Conegliano invece fu portata da un servo. Ecco, una peste che fece grandissima strage. Venezia si votò alla Madonna della Salute e per ringraziarla poi il Longhena costruì il famoso tempio rotondo che chiude il Canal Grande ed è una delle meraviglie barocche di Venezia. Il 21 novembre bisogna recarsi a piedi davanti all'icona della Madonna della Salute e ammirare l'altare alla cui sommità la Vergine accetta la preghiera di Venezia, che è una bellissima dama che si inginocchia ai suoi piedi ed invoca di essere liberata dalla peste. Venezia accoglie la preghiera di questa bellissima dama e sull'altare si vede la peste, una vecchia orribile, sporca, sdentata, con con il seno penzoloni che viene cacciata giù dall'altare da un angioletto armato di fuoco. Quasi l'immagine della veccia. Però, professore, la peste veniva a volte confusa con un'altra malattia che allora era letale, la sifilide. Eh sì, perché non c'erano le idee chiare. Anche la peste provocava in alcune sue forme la comparsa del bubone. Abbiamo ricordato San Rocco che abbassa la calza per mostrare il bubone. E anche la sifilide compare nel suo primo stadio con il sifiloma, che è una specie di lacerazione sul punto in cui è avvenuto il contagio, e poi con piaghe che si diffondono sul corpo. Per cui la sifilide, che era una malattia temutissima, soprattutto nel 1500, perché un nuovo ceppo della sifilide era arrivato con la scoperta dell'America. Noi italiani chiamavamo la sifilide, che era mortale, letale, il mal franzoso. I francesi contraccambiavano il favore chiamandolo il mal italiano. Ecco, nel 500 si diffonde quindi molto l'uso del preservativo, proprio per difendersi contro la sifilide. Famosi a Venezia erano gli armeni per il commercio dei preservativi. Però, siccome la scienza ne ci capiva poco, non sapeva dare quasi nessuna difesa, il preservativo era una prevenzione, non era una cura, anche qua ci si rivolgeva ai santi. Esattamente. Sì, ecco. Qual era il santo a proposito? Il santo è... che non è neanche un santo, in realtà è un personaggio dell'Antico Testamento, quindi non è un santo, ma per noi veneti è un santo, lo chiamiamo San Giobbe. Giobbe. San Giobbe, la pazienza di Giobbe, dico. Esatto, non è un santo perché è un personaggio dell'Antico Testamento, ma se andate a Venezia, lungo Canareggio, in Canareggio trovate proprio bellissima, è uno dei gioielli del Rinascimento, la chiesa di San Giobbe, perché per la nostra tradizione veneta Giobbe è un santo, forse per via della pazienza. Sì. Se ho ancora qualche istante vorrei raccontare brevemente la storia di Giobbe. Un paio di minuti li abbiamo, sì. Sì, perché è il mio libro preferito, Giobbe. Giobbe è in parte in versi, in parte in prosa, il libro bellissimo. Giobbe è un uomo rispettatissimo, ha 7 figli maschi, 3 figlie femmine, ha 7.000 pecore, 3.000 cammelli, insomma ricchissimo e ringrazia Dio. E Dio è orgoglioso di lui, ma Satana, sapete chi è Satana? Sì. Ti ringrazia Giobbe, ti credo, gli hai dato tutto, ma lascia che io scenda sulla terra e gli porti via tutto. E Dio accetta la sfida, vai, scendi, ma non ucciderlo. E arriva Satana e gli fa morire i figli, le figlie, i ladri che gli portano via tutto, il vento, il fuoco, tutto crolla. Giobbe è ridotto sul lastrico, non ha più nulla, però abbassa la testa, dice sia fatta la tua volontà e accetta la volontà di Dio. Ecco. E allora Dio è orgoglioso, hai visto tu Satana, brutta linguaggia, hai visto che mi adora ancora? Ma Satana, che è terribile, dice sì, ti adora, perché mi hai lasciato che gli portassi via la roba, ma lascia che gli porti via la salute, le vedremo se ti adorerà ancora. E Dio accetta la sfida, vai, fai quello che vuoi, ti pongo un unico veto, non ucciderlo. E allora Satana scende e lo copre di piaghe, dalla testa ai piedi, che era il simbolo per gli ebrei della vergogna. Se hai le piaghe fuori significa che hai le piaghe dentro. Sei marcio, malato. Giobbe viene cacciato di casa, lo si vede nei quadri del 400 in cui la moglie gli tira per disprezzo una secchiata d'acqua, e lo si vede seduto su un cumulo di cenere o di sterco. Lui, che era l'uomo amato e rispettato, è diventato lo zimbello di tutti, persino dei bambini. E vanno 3 amici a trovarlo, a commiserarlo, e qui c'è una frase latina bellissima, perché lui dice ai suoi amici: miseremini mei, saltem vos, amici miei, abbiate pietà di me, almeno voi che siete i miei amici. Ma nessuno ha pietà di Giobbe. È duro da accettare, Giobbe ha 1000 esitazioni, ma perché è successo a me? Ma perché Dio mi ha fatto questo? Alla fine però Giobbe abbassa la testa. Difatti parlano della pazienza di Giobbe. Esatto. Professore, purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo è scaduto. Mi dispiace, perché c'era la conclusione di Giobbe, che viene premiato e avrà quindi aveva 7.000 pecore, 14.000 pecore, 3.000 cammelli, 6.000 cammelli, aveva 7 figli maschi, 14 figli maschi, tutto aveva raddoppiato. 3 figlie femmine, restano 3 figlie femmine. E non aumentano. Andate a rileggere la Bibbia, però la Bibbia dice che sono bellissime e che Giobbe le nomina eredi al pari dei figli maschi, e così do soddisfazione alle femministe, certo, che arrabbiano sempre sulle 3 femmine rimaste 3. Comunque ci sentiamo, professore, perché ha fatto un'esposizione stupenda, splendida. Non la bella, stupenda, e noi la ringraziamo veramente. Prego. Ad una prossima volta, a Dio piacendo. Ad una prossima volta, a Dio piacendo, sì. Grazie professore, e prego. Buonasera, grazie mille. Buonasera. Salve a voi. Grazie. Arrivederci. Oh, Antonio, andiamo via? Andiamo via velocemente. Ecco, allora come sempre salutiamo tutti e col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.